Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti voi in contatto con The Groove Master Studio di Radio 24 per l'ennesimo appuntamento del Soundcheck, la prova del suono, ovvero puntata numero 206. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera all'immancabile comunicatore del nostro programma, il dottor Francesco Tromba. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Francesco, questa sarà la tua puntata perché ripristiniamo le buone abitudini, ovvero il repertorio in italiano, selezionato e condotto da Francesco Tromba. Sì, continuiamo la ricerca per dire no al cantautorato triste. Che... Ecco, questo è il concept con il quale tu selezioni gli artisti italiani. Sì, perché diciamo cerco di evitare quella vena triste che ha preso il cantautorato indipendente italiano, perché dal mio punto di vista riescono meglio le canzoni ironiche comunque in questo momento, devo dire. Ti assumi naturalmente le tue responsabilità, avendo fatto certe scelte, avendo selezionato personalmente gli artisti e avendo tenuto a casa altri. Certo, mi prendo le mie responsabilità. Ma d'altra parte, pure per partecipare al Festival di Sanremo è così. Bisogna partecipano al Festival alcuni artisti selezionati da una commissione, altri restano a casa anche un po' risentiti, però... È così che funziona. Così che funziona la vita, c'è una selezione naturale e noi applichiamo le nostre regole personali. Però dicevamo, fra pochissimo parte il Festival di Sanremo. Ne abbiamo già parlato con alcuni nostri ospiti che saranno presenti fra i ragazzi, quindi le nuove proposte del Festival di Sanremo, che ritengo forse quelle più interessanti, come sempre negli ultimi anni. Sì, c'è anche una gestione diversa, ho notato, delle nuove proposte rispetto alle edizioni passate. Ho visto che ci sono già dei video online sul sito della RAI. È vero, sul sito della RAI sono presenti le canzoni che porteranno in gara le nuove proposte, però non so se noi possiamo utilizzarle e ascoltare, non vorrei danneggiare nessuno. Credo ancora non sia del tutto possibile. Ecco, mi sembra strano perché una volta che tu hai messo in rete, anche se sul sito della RAI, certe cose, come fai a tenerle chiuse solo lì? Però cercano magari di far uscire qualcosa, ma non troppo. Poi se noi suoniamo il brano di qualcuno, magari poi lo eliminano e la colpa è la nostra. No, la colpa è la loro, no? Sì. Vabbè, comunque, essere. Insomma, il ragionamento non mi quadra molto. Se utilizzi internet lo fai per portare più gente, dare in pasto a tutti musica e altro. Comunque, tornando a parlare del Festival di Sanremo, quando parte il festival? Tra poco più di una settimana, il 10 di febbraio. Allora, noi abbiamo presentato i Cazzo, questo è il nome della band che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo, anche se poi il nome è scritto Cutso col K iniziale, però la pronuncia esatta me l'hanno spiegata loro. Sì, io fra i miei amici, cioè fra amici l'abbiamo sempre chiamati Cazzo. Sempre chiamati Cazzo. Sì. E poi abbiamo presentato anche il giovane talento del rap italiano, 17 anni, per Gabriele Rosciglione in arte Caligola, che è stato qui con noi la settimana scorsa proprio con il suo papà Dario Rosciglione, eccellente contrabbassista di jazz, e oggi avremmo ospitato la bellissima Serena Brancale, songwriter pugliese, purtroppo non è presente nel nostro studio perché è costipata e quindi vogliamo preservare le sue corde vocali proprio per il festival. Ci dispiace molto, la salutiamo, rimettiti presto perché facciamo il tifo per te. Perché facciamo il tifo anche per Serena Brancale? Perché dal punto di vista musicale, cioè tutti i video che ho visto su YouTube in cui c'è lei, comunque si vede che ha talento. Si vede che ha talento, studia canto jazz al Conservatorio di Bari, discreta pianista, perlomeno le sue composizioni le scrive al pianoforte, anche batterista, percussionista, è una bella ragazza, canta molto bene e al festival si presenta con una canzone, una ballad romantica intitolata Galleggiare, che probabilmente sarà anche il titolo del nuovo album. Però noi posso dire quasi in esclusiva, abbiamo questo singolo che secondo me è uno dei brani più carini del disco, che io ho già ascoltato, mio caro Francesco. Il brano si intitola Il gusto delle cose e qui Serena Brancale se la suona e se la canta in parte con ottimi musicisti come il batterista Mimmo Campanale, con il quale condivide anche il progetto Acustronica. Serena Brancale al soundcheck di Radio 24. Perché sai, mi viene voglia di mandare tutto, sì, queste solite frasi d'amore, sono stufa di cadere, vabbè poi vabbè messi nel tabocco, senza il gusto delle cose. Si intitola Il gusto delle cose, questa composizione con la quale anticipiamo la pubblicazione del primo album della giovanissima Serena Brancale, fra le protagoniste del prossimo Festival di Sanremo nella sezione Giovani, Nuove Proposte. È quasi un brano in anteprima per noi, molto carino questa composizione che mi ricorda il linguaggio e la lezione del formidabile Pino Daniele, compianto Pino Daniele. Sì, bisogna comunque mantenere il contatto con quello che è il passato, diciamo, del songwriting italiano. Assolutamente sì. Serena Brancale sarà presente quindi al Festival di Sanremo, speriamo in ottime condizioni, doveva essere qui da noi, però è costipata e allora è meglio che sta a casa al calduccio prima di affrontare il viaggio per Sanremo e poi tutto quello che comporta essere lì al festival. Interviste, si parla tanto, si incontra tanta gente, si fanno nuove conoscenze, ci sono le prove e insomma quando stai lì c'è un bel da fare. Sei mai stato al Festival di Sanremo? No. Lì live non ci quasi quasi stato. Ti spedisco io a fare un po' di interviste, ci vuoi andare? Volentieri, vediamo se no. Possiamo organizzare qualcosa. Senti Francesco, abbiamo però anche un'altra amica del soundcheck. Sì, un'altra vecchia conoscenza che sarà al festival proprio per accompagnare Serena Brancale. Sì, farà la direttrice d'orchestra, Carolina Bubbico. Ecco la bravissima Carolina Bubbico, anche lei pugliese, forse anche lei sperava di partecipare al festival da protagonista, invece accompagnerà Serena come direttrice d'orchestra e forse sarà la più giovane dei direttori penso d'orchestra. Di sì, credo di sì. Direttore d'orchestra sì. Perché è giovane anche lei, quanti anni ha? Sì, la Bubbico, 24, meno, 25, sì. 26 anni, non più non meno di la più. Stessa età. Comunque brava musicista. Allora, ascoltiamo un'altra traccia del nuovo album di Serena Brancale. Non sappiamo ancora se l'album si intitolerà come la canzone del festival Galleggiare, però questa è un'altra composizione originale intitolata Solo in una. Serena Brancale in esclusiva, lo posso dire? Sì, in esclusiva, diciamo in esclusiva, è sempre bello dire in esclusiva, sì. Per il soundcheck di Radio 24. In bocca al lupo Serena. No, non ci sono parole chiare e non so se ora è meglio intervenire, se provi a dire cose troppo colorate, ti trovi a viver tra persone mai cresciute. Oh, e si sa, è meglio stare zitti, stare buoni, stare in silenzio e camminare. Soundcheck, il suono della musica. E il nostro Francesco Tromba, comunicatore multimediale del Soundcheck, ci sta proponendo il repertorio in italiano selezionato esclusivamente per voi. Mio caro Francesco Tromba, abbiamo presentato due brani della bravissima songwriter, polistrumentista Serena Brancale. Adesso vediamo che cosa puoi tirare fuori dal tuo scrigno. Sì, la prossima artista si chiama Chicca. Chicca? Sì, è una artista che è nata in Italia, però in realtà canta principalmente in francese, perché è la lingua, credo, del padre, se non sbaglio. Sì, ma vive in Italia? Allora, è nata a Vicenza, ha iniziato a studiare musica lì a Vicenza, in Veneto, però adesso vive a Parigi. Vive a Parigi, sì. Quindi è un'artista francese. Sì, cantando principalmente in francese. In francese, ma tu l'hai selezionata per noi perché? Perché canta anche in italiano, qualche brano in italiano c'è nel suo disco. Quindi che hai fatto? Hai scelto un brano in italiano? Sì, esatto. E musicalmente che cosa propone Chicca? Come si scrive Chicca? Così col K. Chicca col K, sì, come inizio. I cazzo che si scrivono col K, però esatto. Chicca col K, va sì. Bene. Ha una venatura, diciamo, soul, anche un pochettino elettronica, mista comunque a quel fascino da cantautorato francese, un po' possiamo dire... Retro? Alla... Sì. Esatto, un po' retro, un po' vintage. No, ma fa una sorta di electro swing, sì, cose del genere? Simile anche. In alcuni pezzi sì. I suoi precedenti album erano molto più jazz rispetto a questo ultimo, nel quale ha conosciuto un produttore, si chiama Gaben Laser, che ha curato anche l'album di un artista francese che si chiama Ben L'Uncle Soul. Questo produttore ha dato una venatura molto più soul pop alla voce, produzione, sì, di Chicca. Fammi vedere la fotografia di Chicca. Ma è anche una bella ragazza. Sì. Porca miseria, ma molto carina Chicca. Allora, che facciamo? Raccomandiamo l'acquisto dell'album di Chicca. Sappiamo anche il titolo dell'album? Credo abbia... il titolo sia semplicemente il suo nome, Chicca. Chicca. Allora, presentiamo Chicca per la prima volta al Soundcheck di Radio 24. Come si intitola il brano che abbiamo scelto? Domani, mi sembra. Sì, domani. Domani. Della giovane artista, anzi la verità non vorrei sbagliare, non so quanto sia giovane Chicca, però questa è Chicca, artista italiana nata a Vicenza, residente a Parigi dove svolge la sua attività, brano come sempre selezionato per il repertorio in italiano dal nostro comunicatore Francesco Tromba, brano intitolato Domani, sempre qui al Soundcheck di Radio 24. E dalla voce della bellissima Chicca passiamo a un altro artista italiano, è un artista, una band. È un artista. È un cantautore. E anche qui mi sa che tu te li vai cercando proprio, anche questo ha un nome particolare. Sì, si chiama Gnut. Gnut? Sì. Ah, non Gnut? No, si dovrebbe leggere Gnut. Gnut, gliel'hai chiesto? Non gliel'ho chiesto, però ho sempre sentito dire così. Gnut, sì, l'hai sempre sentito dire? Perché tu già lo conoscevi? No, ne ho parlato con dei miei amici che già l'avevano ascoltato. Hai dei pusher di cantautori della nuova generazione. Sì, perché comunque ho degli amici che sono molto appassionati di ferrati musica. Ferrati sulla materia. Cerco di condividere questa mia ricerca anche con i miei amici. Allora, il signor Gnut, che sembianze ha? Si chiama Claudio Domestico. Claudio Domestico e arriva da? Napoli. In realtà, diciamo, prima faceva l'insegnante, poi si è dato definitivamente alla musica. Alla musica. Sì. E secondo te ha fatto bene? Sì, è un bel disco, il suo ultimo disco. No, dico, ma di questi tempi ha fatto bene a lasciare il posto fisso, che era supplente? Forse economicamente non ha fatto ancora benissimo, ecco, magari. Però se a te piace il suo disco, allora è già una cosa importante. Sì, devo dire che nel suo disco ci sono delle venature molto interessanti. Si riesce ad ascoltare tutto, non è già è una cosa importante. Tu mi vuoi dire che hai posizionato, non dico il vinile, il CD, quello che è nel tuo lettore preferito, hai ascoltato l'album di Gnut dalla prima all'ultima traccia? Sì, in realtà l'ho ascoltato però su Spotify. E come ne sei uscito? Abbastanza contento, devo bene, dire. Allora mi fa piacere, grazie, perché io non sono contento quando conosco nuovi artisti. Non conoscevo Gnut, mi dispiace, ammetto la mia ignoranza in materia e quindi sono felice di presentarlo anche agli amici di Radio 24. Che brano hai scelto e come si intitola il disco? Tra l'altro volevo dire che è anche un fan famoso, Roberto Saviano ha condiviso uno dei suoi brani sui social. Addirittura, sì. Allora Gnut, napoletano, cantautore della nuova generazione, quanti anni ha? Intorno alla trentina, se intorno alla trentina. Allora, tu hai selezionato due brani, perché la durata dei brani comunque è minima. Sì, sono tutti quindi brani quasi indolore. Sì, quasi indolore. Allora, hai scelto due brani, mi sembra Non è tardi e Quello che meriti. Esatto. Di che parlano? A me piace di più il secondo. Va bene, allora ascoltiamo il primo, Non è tardi, e poi Quello che meriti, per la prima volta al soundcheck, il suono di GNU. Rapire i giorni, andare via senza contare il tempo, verso un sole che con me risorge. Portami con te, vento caldo che non dorme, dammi le tue idee, fammi rimanere forte, dimmi che non è tardi. Soundcheck, il suono della musica. E questo signore si chiama, anzi vorrei dire si intitola con questo nome, Roberto Michelangelo Giordi. Certo, forse più un nome da procuratore della Repubblica o da avvocato che da songwriter italiano della nuova generazione. Presente qui al soundcheck con il suo brano La Grande Fuga, perché selezionato dal nostro Francesco Tromba per il repertorio in italiano del soundcheck. In questo caso però la ricerca ha fatto una piccola eccezione, no? Di solito tu selezioni brani ironici, qui invece il testo parla di un argomento importante, quindi il classico cantautore impegnato. Sì, in questo caso ho fatto un'eccezione proprio perché i testi di Roberto Michelangelo Giordi mi sono piaciuti parecchio, perché comunque racconta sempre qualcosa e fa riflettere tramite la musica. In questo caso, ad esempio, ci parla appunto di ristabilire un primato dell'uomo sulla macchina, e quindi anche sull'economia, il primato dell'essere umano su tutto il resto delle convenzioni della società che abbiamo costruito, diciamo. Ecco, ne parli con un certo entusiasmo di Roberto Michelangelo Giordi. So che segui le sue vicende artistiche attraverso YouTube, perché il nostro amico è anche un bravo filmmaker. Sì, è molto bravo, e vi consiglio di guardare i suoi videoclip, perché sono tutti girati in maniera magistrale, secondo me. Addirittura. Sì, molto bravo, sembrano quasi dei mini film, dei piccoli cortometraggi. Ebbene, per la prima volta al soundcheck, quindi abbiamo apprezzato Roberto Michelangelo Giordi. Abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione per chiudere in bellezza la prima parte del nostro soundcheck, poi arriva l'informazione di Radio 24, e poi ci lasciamo andare un po' al funk e al contemporary R&B, credo, mio caro Francesco. Sì. È arrivato anche il momento per me, no? Sì. Allora, da Roberto Michelangelo Giordi, per chiudere questa prima parte, utilizziamo Voci di Corridoio. Sì, Voci di Corridoio, perché il nome di questo organico italiano che sta insieme da un po' di tempo. Sì, si sono formati intorno agli anni 90. Sono un quartetto di voci con l'aggiunta di un trio composto da pianoforte, contrabbasso e batteria. Ecco, Voci di Corridoio ultimamente hanno pubblicato un album per celebrare il lavoro di Lelio Luttazzi con le sue composizioni, e lo hanno fatto sempre in chiave ironica, ma d'altra parte anche le canzoni e i testi di Lelio Luttazzi hanno sempre dimostrato grande ironia e un gusto per il divertimento. Sì, tra l'altro è un progetto completamente affine a quelle che sono le sonorità di questo gruppo torinese, perché loro si rifanno appunto allo swing degli anni 30-40 e appunto Lelio Luttazzi prendeva ispirazione proprio da queste sonorità per la sua arte. Devo dire che il disco, che si chiama appunto Speciale per l'Elio, mi è piaciuto parecchio, perché comunque vede, accentua proprio questa visione ironica, scherzosa, ma comunque abbinata della ottima musica, che faceva parte dell'arte di Lelio Ruttazzi. Voci di corridoio al soundcheck chiudono la prima parte con l'importanza del microfono. Ci risentiamo fra pochissimo dopo l'informazione di Radio 24. L'importanza del microfono, domandate al grammofono o a quel tal cantante afono. Risponderà senza esitar. È importante quel microfono. Senza lui con il megafono. Ogni voce che sassofono. Oh, che trombone, che delusione. Questo oggetto che personalità ti fa un fischietto. Se dici cose stupide, troppo stupide, ogni voce assai gradevole, pur se parla l'onorevole. Mentre invece è tanto fievole, se non funzionerà, l'importanza del microfono è qua, tutta qua. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Torna il soundcheck dopo l'informazione qui su Radio 24, sempre con Gegè Telesforo e il nostro Francesco Tromba, e dopo una prima parte dedicata alle sonorità italiane della nuova generazione selezionate dal nostro Francesco, cambiamo musica e ci spostiamo quindi su un versante più vicino alle sonorità tipiche del nostro programma. Intanto ti ringrazio perché mi stai facendo conoscere tutto un mondo di nuovi interpreti della canzone italiana che non conoscevo. Grazie a te per lo spazio offerto. Figurati, però cambiamo musica e vorrei presentare agli appassionati di Radio 24 il sassofonista Sean Kahn, musicista inglese, musicista con un bellissimo background jazz, ma anche con la passione per il funk e per l'R&B, come tutti i musicisti di oggi, che un paio di anni fa ha realizzato una composizione intitolata semplicemente What is Jazz? Che cos'è il jazz? E infatti ci viene raccontato da Sean Kahn, soprattutto attraverso le parole, non è proprio un rap, ma più delle spoken words, per la voce bellissima di Genevieve Grant, che ci racconta che cos'è il jazz soprattutto da un punto di vista sociologico, un po' come fece con un suo famoso libro il mio amico Ben Sidran, che scrisse Black Talk proprio come tesi di laurea, un libro importante per gli appassionati di jazz, proprio perché ci spiega il valore di questa musica, non solo per gli afroamericani ma per tutti noi che la seguiamo. Sì, è anche è stato un modo di fare anche lotta politica per alcuni artisti jazz, soprattutto lì in America, quando era difficile appunto suonare solo per il colore della pelle. Certo, quanti artisti fino anche alla fine degli anni 40, per esibirsi in alcuni club gestiti da bianchi e quindi con un pubblico fatto da bianchi, erano costretti a entrare dalla porta di servizio. Soprattutto nel sud degli Stati Uniti era ancora più difficile, anche per nomi già affermati come Ray Charles non era facile inizialmente riuscire a suonare. Per nessuno, pensa alla povera Billie Holiday, che ha vissuto questo problema quasi per tutto l'arco della sua incredibile carriera, ma poi pensiamo a quello che ha fatto e quanto è stato importante il suo lavoro. Quindi cerchiamo di capire che cosa combina Sean Kahn con questo What is Jazz qui al Soundcheck di Radio 24. Un bel groove scarno e poi il testo bellissimo di Genevieve Grant qui al Soundcheck. What is jazz? Jazz ultimately is the expression of the individual, a principal American ideal, supposedly. How much freedom does one have in the ghetto? America didn't have the maturity or sensibility to deal with the sociological impact of bebop. Paradoxically, bebop was just too free. The black Americans who'd invented this new music were only expressing the major fundamental principle of American idealism, namely... Soundcheck, il suono della musica. Pro Blue. La versione remix realizzata dai Ninth Wonders Blue Light Basement per Afro Blue, celebre composizione di Mongo Santa Maria, nella versione di Robert Glasper con i suoi Experiment e la partecipazione di Erika Badu e il rapper Fonte, qui al soundcheck di Radio 24 con il nostro Francesco Tromba, pronto e operativo per presentarci gli squilli di tromba, ovvero alcuni dei concerti più interessanti presenti nel nostro paese ma anche all'estero nei prossimi giorni e quindi la prossima settimana. Che cosa abbiamo? Visto che veniamo da qualcosa, diciamo che prima abbiamo ascoltato qualcosa di jazz, parliamo magari prima di quelli jazz oppure... Quello che vuoi, Francesco. Ok, allora, Kenny Werner sarà domani al Teatro Franco Parenti di Milano. Bene. E anche il 2 sarà al Moody Jazz Café di Foggia. Ottimo. E... Sergio Cammarieri, abbiamo già parlato di lui nelle passate. Eh sì, è tornato puntate. A fare i concerti. Sì, sarà al Teatro Augusteo di Napoli lunedì 2 febbraio. Nicola Piovani invece sarà mercoledì 4 al Teatro Bibiena a Sant'Agata Bolognese, provincia di Bologna. Chiara Civello giovedì 5 sarà al Teatro Ristori di Verona. Un altro concerto che vi consiglio vivamente è quello dei Golden Circle, che saranno all'Hotel Gio Perugia Jazz Club il 6 di febbraio. E tornando alla musica, siamo pronti per presentarvi una band nuovissima, perlomeno questa è la prima volta che li presentiamo al soundcheck, giusto? Sì, la prima. Ecco, si chiamano Voo Park, arrivano da Chicago e il sito Bandcamp, perlomeno la pagina dove sono presenti, li descrive come formazione di jazz psichedelico. Sì, forse anche un po' jazz soul psichedelico. Eh sì, la voce c'è un po' di molto... tutto, è vero, sì. Sì, perché la voce soul di Emily Nichols rende accattivante sonorità che in alcuni momenti possono sembrare anche un po' dure, un po' come per Hiatus Keyote. Esatto, somigliano molto alla band australiana. Allora, vediamo di capire che cosa combinano con il loro jazz psichedelico soul e R&B questi ragazzi che arrivano da Chicago. Lo ricordo, si chiamano Voo Park, il brano che abbiamo scelto per presentarveli si intitola Boom Bap. Che cosa hanno fatto, un EP? Sì, si chiama Smokes questo EP. Soundcheck, il suono della musica. Il suono potentissimo degli Snarky Puppy, che hanno anche vinto un Grammy Award con l'album Family Dinner, esattamente il brano cantato dalla bravissima Lala Hathaway. Ma in quella pubblicazione, ovvero Family Dinner, c'era anche la partecipazione della vocalist Malika Tyrolean, che infatti qui è presente con I'm Not The One insieme agli Snarky Puppy, band che abbiamo apprezzato anche dal vivo nella passata edizione di Umbria Jazz lì a Perù, e che hanno dimostrato anche dal vivo di essere potentissimi, veramente forti questi ragazzi. Sì, hanno anche ho visto un video recentemente in cui hanno invitato sul palco anche Jacob Collier, che ci piace parecchio. Sì, durante un concerto a Londra hanno invitato Jacob Collier e poi si esibiscono molto spesso a Parigi, speriamo di rivederli presto anche in Italia. E direi di fare una cosa, Francesco, prima di presentare invece il singolo del nuovo album della vocalist Malika Tyrolean, canadese, che qui canta in lingua francese

Soundcheck. Il suono della musica. E allora la scena canadese è da tenere d'occhio, perché anche questa artista, questa brava cantante che si chiama Mary D, che qui ci ha fatto ascoltare Heart to Heart, arriva dal Canada francese, tu che sei preciso? Sì, anche lei penso sia di Montreal come... E anche Mary D, così come la sua collega Malika Tyrolean, arriva dal Canada, ma se Malika Tyrolean utilizza la discografia ufficiale in virtù anche del successo che ha ottenuto con Snarky Puppy, invece Mary D utilizza Bandcamp. E quindi è da tenere d'occhio Bandcamp, così come SoundCloud, perché gran parte della produzione originale dei nuovi artisti è in esposizione in bella vista su questi portali. E quindi che cosa significa? Che il CD è morto e sepolto o no? Il CD forse sì, però il vinile sta avendo una seconda vita, è resuscitato a quanto pare. È resuscitato soprattutto in Giappone, hai visto, in Giappone va fortissimo la vendita del vinile. Sì, ho letto un articolo che dice anche in Gran Bretagna sta andando benissimo, quindi c'è stata era da 18 anni che il vinile non era così alto nelle vendite, è un mercato di nicchia che prima prevedeva, diciamo, un valore di 3 milioni di dollari, adesso si è trasformato in un mercato da 20 milioni a quanto pare. Ma pensa te, quindi per il piacere da parte degli appassionati di suonare su sistemi analogici i supporti musicali. Esatto, e anche in Italia c'è stato un incremento solo nel 2013 del 26% e anche nel primo trimestre del 2014 c'è stato un incremento della vendita del vinile del 14%, quindi a quanto pare il CD è morto. Il CD è morto, se ne comprano, se ne vendono pochissimi, va molto forte invece il download sempre per quanto riguarda gli MP3 e la musica digitale, ma il vinile ha ricominciato a vendere. E noi siamo agli sgoccioli, mio caro Francesco Tromba, fra le varie band, i vari artisti che hai seguito su Bandcamp, che hai trovato su Bandcamp, quali sono quelli che ti piace ascoltare, quelli che per te potranno dire la loro anche in un prossimo futuro? Sicuramente i Moonchild sono una delle formazioni. Sono anche fra i miei preferiti. Sì, perché hanno proprio, si vede, si sente, si intuisce subito che hanno comunque del talento, sia dal punto di vista proprio performativo, sia anche quello che hanno da dire musicalmente. E questo perché hanno talento e hanno anche una solida preparazione, perché i tre musicisti dei Moonchild, ovvero i due ragazzi e soprattutto la bravissima Amber Navran, cantante sassofonista, hanno alle spalle un bel percorso didattico, perché si sono laureati in musica alla università in California. Sì, nonostante credo siano anche abbastanza giovani. Giovanissimi, sì. Non hanno ancora 30 anni. Se non sbaglio lei ha addirittura 24-25 anni. Sai che le ho mandato una mail? Che cosa ti ha risposto? No, la verità non mi ha risposto. No, sarà impegnata. Sarà troppo impegnata. O ho sbagliato io a scrivere la mail. O forse... Ma ci devo riprovare. No, perché mi piacerebbe parlare con lei e farle magari un'intervista via Skype qui per il nostro soundcheck. Magari, perché no? Allora, abbiamo parlato abbastanza dei Moonchild, quindi lasciamo spazio alla loro musica, salutandovi, ringraziandovi per l'attenzione, ricordandovi che torniamo domani, come sempre la domenica, in un doppio appuntamento a partire dalle 15:30 con ospite una bravissima attrice che è la mia amica Francesca Reggiani. La conosci? La conosco e sono praticamente cresciuto con le sue imitazioni. Beh, preparati, perché è una mitragliatrice di parole. Immagino. Puoi immaginare. Quindi Francesca Reggiani sarà con noi nella prima parte del soundcheck per parlare, sai di cosa? Di cosa? Del futuro di una volta, che poi è anche il titolo dello spettacolo che porterà in scena a Roma a partire dalla prossima settimana all'Ambra Iovinelli. Quindi esperta di tecnologia. È una comunicatrice come te, anche lei. Sì, ne parleremo con Francesca Reggiani e poi la seconda parte, sempre la domenica, alle 19:15, quella più jazz, più vicina agli appassionati del genere. Allora andiamo con Moonchild, vi salutiamo, vi ringraziamo. Il brano si intitola Don't Wake Me, non mi svegliare, e noi invece siamo sveglissimi e fra pochissimo andiamo anche a cena, mio caro Francesco Tromba. A domani. A domani, buonasera, buona serata e buona musica da Gigi Telesforo. But just to keep holding on, I have to wait again. While time waves at all I know. And I awake and count the day. Wishing I